siamo aumentati poco fa, siamo in campagna, controllare, a fare, sta sempre piovendo, porca miseria, non ti fa fare niente. Beh. Ascolta, che cosa succede quando con questo tasto? Guarda, faccio questo passaggio, sono così, faccio così, cosa succede? Qualcosa? Allora, c'è un ecco, un bip in più e poi è sparito l'ecco. Ah, ecco, ho capito. E se il microfono non funzionava? Qual è quello? Il MP5? No, vabbè, te la devi dire, te l'ho comprato, te l'ho comprato, non l'ho mai usata perché non va bene la testa, non ci sta. Purtroppo ho fatto delle modifiche qua, faccio anche le prestazioni. Come antenna purtroppo non si piega quindi come salendo questa saletta si piega, c'è la traccia pieghevole, quindi non più abbassare a fare come invece il 25 è fisso, ecco da me non ci sta la e io conosco la saletta, l'ho regalato a Giulio io. Lì si è rotto il tastino, quello rosso, non riesce a trovarlo, nuovo quel microfono. Non so, fare qualche modifica, ecco qualche giorno si mette a fare qualche modifica, e dopo di quello la mette un'altra. Vediamo un po' se ci riesce, già si appenta, ecco. Più 5 più 4 sono alti, quindi devi avere spazio. Insomma, è tutta vuota questa stanza, si sente rimbombo, no? No, va bene. Ma dove è nel tuo? No, no, è perfetta la modulazione, non toccare niente. Ecco, 4,50€ la batteria. A posto d'ora vado da 3€ e te ne da fare in più. Sì, anch'io quando devo comprare batterie buone, quelle per i telecomandi le compro dai cinesi, quelle piccole e quelle grandi. Le mini stile le stilo, tanto. Telecomando è così, però per i microfoni quando mi serve io vado lì da ElettroPiù, via Varna Bassa, sotto casa di Antonello, le compro lì 3€. 3€ quelle della Varta, quelle alcaline, 3€. No, io ho preso sulla città, sono i migliori che ci sono, ma questa qua c'era una barca di anni e si è scaricata di colpo. Non so, lo chiamo che sembra una strana, poi ho fatto qualche componente dall'interno. Lo so, ma a volte quando arriva più tensione te la mangi in quell'attimo che stai parlando con la poca tensione che c'è e poi ti si blocca. Sì, alcaline, durace pure lì, le alcaline sono tutte durace pure lì. 3€, sia quella da 9 volt che le stilo, le mini stilo, quelle buone, insomma. Io non ne ho di microfono, c'ho solo il più 4 e il più 5, che sono alimentati a batteria, gli altri sono tutti alimentati dalle radio, quindi no. Prima ne compravo un bel, tranne più 3, tranne più 2, poi mi sono stufato, ho già regalato tutto, la tua lineare craft nuova, Gianni Capridue sta ancora saltando. Gianni ce l'ha. Sì, l'ho regalata a lui, quella. Con gli altri, il 101, il digital, e un po' di radio vintage, ma radio, però non sto parlando di cagate, radio veramente molto bella, 101 digital della Sommer, che anche è molto grande, simile al DAC, quelle le ho date tutte a Roberto Quadrato. Radio che si rompe di cagate, la modifica, la paese del radio, si hanno a pochi, e vabbè, ma lui le mette lì, c'è una bella vetrina, ha sistemato tutto, quando sono andato a portargliela, e a casa c'è solo una radio e basta, però in garage c'è tutto una bella cosa, adesso se riesce a fare uno spazio lì nel salone, fa una vetrina lì nel salone, ha detto, comunque le piace bugare tutto, non ho dato lo standard vintage UHF base, perché quella è una cosa appunto, quella di Giancarlo Baffigo, sono tenuta solo quella, il DAP e i portatili che ho, uno di 15, tolta completamente, adesso posso affacciarmi alla finestra, ma posso fare tutto. E va bene, ordinata, quello che serve. E boh, ho messo la televisione, il televisore a parete, perché non ci stava, mi toccava la base. Cioè, ho messo a posto questa offerta giusto per essere, insomma, raccogliete anche prima, ma c'era troppo allora. I cavi che ho eliminato, guarda, una cosa allucinante. Serviva adatta a persone in gamma come Roberto, ogni volta che vado a fare delle cosettine, non mi ha messo a posto tutta la 600, proprio con 2 lire, capito? Gianni poi si è sempre comportato bene con me, abbiamo fatto dei cambi, delle cose, mi ha volato una radio anche lui. Io quando le persone ne meritano le do le cose, almeno fatte. No, io c'ho tutto già. Io ho sempre tutto quello che serve, tutto, ho 3 HF, i 2I come un Iaesio, HF, HF, ma non ho giocato, ho 780 base, ho l'820H base, ho il 275 base, ho il 430 linea completa, il 440 linea completa, ho 1, 2, 3 MC60 sulla base, quella attaccata al muro, 2 SM20, e così vi va, ancora di voi, ma basta così, non c'è più spazio, dai, va bene. Il pattuglio, noi stiamo andando dall'altra. succede sempre, non è che e come fai, purtroppo è così. I mezzi di lavoro sono sempre molto più delicati rispetto a una macchina normale. Cambio il trattore, dei mezzi pesanti, dei camion, le cose, non è come fare il cambio alla macchina. No, io mi prossima settimana ho appuntamento da Rosseddu, che non sta scivolando, le marce entrano bene, però devo portare la 147 a fare la frizione. 550 euro. 2 anni fa mi ha fatto la catena di distribuzione, adesso ce la fa la frizione, è normale, c'ha 160.000 km, mi pare 170, e niente, Roberto probabilmente mi aveva fatto alcuni lavoretti, nulla, di nà, però volevo fare perché per quest'anno non se ne parla cambiare macchina, il prossimo anno si deciderà, ancora va bene e me la voglio sfruttare. Distribuzioni, cambi d'olio normale, regolari, le gomme quando ci sono, quando ci vogliono, per una macchina eccezionale, veramente nuova, 26.000 euro costa per la macchina, tempelle dentro, tempelle, sì, tempelle, tempelle, qualche cosettina ce la fare, però ancora da sfruttare bene, perché è un razzo, a dire poco, ma un razzo, un siluro, cioè 150 cavalli con la macchina, è un siluro. Funziona bene, non consuma, quindi ancora la sfruttiamo, anche se io ti dico poco la sto sedendo perché non mi interessa, oramai è di l'aria mia Graziano in PMR invece io abbascio, io ce la mia 600 tutta fatta nuovo, perfetta, esatto, mi rivisto già questa macchina in città, cosa sono anche di Roberto lì al CISAL, al patronato, che dovevo fare un'integrazione da portare all'Ips, c'è un buccio di traverso come ti facevo con la Smart, giusto, giusto, vai. La macchina è piccola, ma comunque io dico la verità, la mia ce l'hanno ancora e dopo che io l'ho venduta hanno fatto 150 km, no, 1500 km che sono in una che aveva tenuta benissimo, sempre in ordine, poi ho rifatto fare anche la cappotta, tutto, capito? Gli ho rifatto fare tutto, la macchina era buona, è che per te la sicurezza di alzarti la mattina e arrivare al lavoro è chiaro che era necessaria, quindi cosa stai lì a comprare macchine? La prendi nuova, ciccio, io ti ripeto perché non viaggio più, ma avevo la macchina in servizio, quindi l'ha sfruttata poco la 147, adesso la usa mia figlia per salire e scendere da Fredanienda, quindi poi per il resto usano, escono con quella del ragazzo, il sacco senza macchina, adesso va un 3000 della BMW 6 cilindri, tipo guarda quella c'è la Walter prima. Ce l'ha la macchina, diciamo che anche il troppo grosso per l'Italia non prenderebbe una via più piccola, volete, se la compra la chiede che compra se una più piccola un po', e quella lì come si può, noi è la famiglia, e quello che hanno di difetto è che tra Sud Amburgo e Puglio dal capo di Pizzetti su di Italia. Io ti faccio la mia, ma poi Mario, allora va lui a controllare lui, la fa lui, se la prende, lascia la sua qua, se la porta via. Il motore l'ha lavato una volta solo, si apre il motore come il giorno che con tutte le sue scritte, tutto perfetto, nuova già, non fa gara, non fa trasurazione, boh, non mi ha detto mai niente, la mette sopra il ponte, l'ha fatto anche l'estate, fa anche il graffitaggio per non seccarsi, capito, sotto, ma con la graffite, non con l'uzzo bruciato, no? Sto dicendo che è perfetta, perfetta, hanno messo quattro gomme, quando prima di Natale abbiamo messo lì alla Genovese, lì alla Porto Torres, perché io mi servivo lì con le macchine di lavoro, quindi mi conosco, quelle, ti dico che va bene la macchina già, no, non fa, ho avuto un sacco di spese ancora, quindi cambiare la macchina e suicidarsi per fare che cosa? Non vale la pena in questo momento, se funziona bene si sfrutta, quando non funziona più tanto non vale niente, capito? O la rottami o prendi l'incentivo e compri la macchina nuova, no, beh, non ne prende più di macchine così grosse, no, già di 1.900 prenderà un 1.300 multijet, qualcosa del genere, insomma. Anche se lei è fissata, che il bizzino è fissato, ma l'ha detto, ha detto che va a Modena e se la compra a Modena la macchina. Le piace molto la classe, la serie 1 della BMW, le piace la Audi A3, fate quello che vi piace. A me poco mi interessa più la macchina, basta che riesco a spostarmi, non me la futti manco, balla anticamera. No, non senta nessuno, chi è? Giuseppe, mi ha detto tutti a me. Giuseppe, è Santiago 1 qua, Giuseppe. Manco riesco a capire ciò che dice. Attenti, Giuseppe. Forse sono qui. Quando ha cambiato quell'antenna, non arriva più, cazzo. C'era ragione che arrivava anche Santiago 9. Non lo sento più, in mezzo al QRM arriva. No, la cosa non stava arrivando a questo. Oh, io non lo sento più, prima arrivava benissimo, adesso non riesco più a capire manco quello che dice. Oh, yeah, devo andare a comprare la carta, non ho mai usato, sto finendo la carta per stare, andare a comprare la carta. Già, io sabato siamo andati con mio vicino di casa al mercato, ho preso carne per tutta la settimana, anche la carne macinata per Filippo, le ossa, quelle molli, fare in brodo per dare a lui, ho preso di tutto, mia moglie ha fatto una quarantina di polpette, le ha tutte selezionate e messe in freezer, ce ne ho carne, ce ne ho, sì, c'ho anche petto di pollo, c'ho una bella testa grande di cinghiale, quella di maiale, quella abbiamo fatto la favata adesso, il 2 di febbraio sono andato in campagna, e la carne bisogna prendere a mettere in freezer, porca miseria, perché capita pure che manca, ho preso anche un altro sacco, mi sono fatto portare, perché il tempo è brutto sempre, per non stare a farle venire qua, un altro sacco mi ha fatto portare di scorta di mangime per Filippo anche, e vabbè, e vabbè, tu dove c'hai la macelleria, perché è lontano da casa? No, andiamo a Valletta, dove ci servono bene, dove ci fanno le prese, poi c'è la fredda sotto la casa, ma non hai in casa, dai, non vado bene, mettono sopra e sotto, c'è un punto su questo. Sì. No, poi mio cognato mi ha regalato mezzo vitello, l'altro giorno è venuto con una busta, tutte selezionate, c'erano fettine, bistecche, c'era una fiorentina di quelle grandi grandi, bella. C'è un freezer pieno di carne già, come noi ne mangiamo un po' cavertà. Quindi quando andiamo in campagna, con mio vicino, di sabato, di domenica, no? Allora un po' di arrostito le facciamo, salsiccione, c'ho pancetta, capocollo. No, c'è il freezer, quelli a cassetti, io non li ho freezer apposta. Ce l'avevo, l'avevo regalato a Mario Masse. L'avevo regalato, l'avevo trasloccato e sono venuto qua, da via Pascoli. E non ne ho, quindi con la cassetti, c'ha quattro cassetti. Quando come sta piena alle indutti, però ci stiamo ancora la verdura. Sotto ci sono, sportello picco, sono quattro cassetti abbastanza grandi, e adesso è tutto frigo. Da una parte, sai, quando apro sportello ci fanno tutte le bottiglie, cioè, va bene, io sai, e noi siamo in tre. Cosa pensi che c'è una campagna lo stesso di frigo, ma grande lo stesso, c'è la cucina componibile anche lì, quindi, però la carne la stiamo tenendo qua. E comunque stamattina mi sono accorto, giovedì non ci sono andato, qualcuno ha scavalcato la recinzione, mi sono accorto c'era l'erba pestata. Va bene, e i cani ci sono, non lo so. I cani già ci sono, ce ne due i cani, però stiamo attenti a non fare a troppo appare con Mario, anche se ce le danno voce. Allora, praticamente questa signora dal dottore sta parlando di cani, che gli hanno fatto la notte, lui aveva un cane del grosso pastore tedesco, un soldato molto bravo, però con la gente, se non c'era meno li faccia pensare. Che giovedì il cane non c'era, perché più era il veterinario e quello piccolo l'ha portato a controllare, che stava camminando un pochettino mezzo zoppo e c'aveva una spina nel piede, c'era una pianta del piede, quindi giovedì l'ha scoperta, quindi è qualcuno che sapeva che il cane non c'era, capito? Ma sono chiaro, attenti, hanno fatto papà con Mario, anche Mario non so guio, Mario non sta lì a cincischiare, capito? Ma i bisanti un bel, quindi sono attenti, che lui non è che sta a parlare molto. Sicuramente qualcuno sapeva che i cani non c'erano, che solo la stavano cercando, perché dalla parte del cancello, dietro, siccome c'è la ringhiera bassa, capito? Non gli ha detto, c'è la ringhiera bassa, tipo quella che ci abbiamo noi qua, tutto ringhierato, basso, ringhiere, proprio ringhiere. Non sono andato, c'era l'erba, si vedeva l'erba calpestata. L'abbiamo controllata, un gaetano, ma non mancava niente, perché c'è una casetta fatta apposta, sembra una casetta normale, abitabile, però lì ci sono tutti gli attrezzi, c'è rasa erba, ci sono i teloni della piscina, c'è il cespugliatore, rastrelli, carriole, insomma c'è tutto quello che serve. Non mancava niente, quindi concentrate a curiosità. Io chiamo, ma non ho mai solo, perché esce alle 7, a volte alle 8, 8 e mezza, che chiude l'officina, fatto lavaggio, passa a trovare la madre, poi sali, quindi è successo di giorno, capito? E curiosità, volevo vedere, magari sono entrato a vedere se riuscivano a furare nei deloni della piscina, ma ci sono i pesi, tutti giro in giro, i cuscini pieni d'acqua ci sono, no? Quei cuscini di gomma che si mettono per non far volare il telone, e quelli pesano. Se si una ragione, ve la guai, portarli. Abbiamo messo in due noi. Quindi, che curiosità è. Allora, sono ben attenti, non ho detto niente neanche io a Mario, figurati. Se glielo dico guai. Se glielo dico guai. Tanto io è poco veloce, Baffetti. Cercate andate a farli subito. E ma insomma perché non c'erano i cani, sono entrati a curiosare, capito? Perché come ti avvicini sia alla recinzione che al cancello, i cani abbaiano e quando li vedi dicono vengono entrati. Quindi non c'erano, allora è per quello. E vabbè. Va bene, va bene. L'importante non sia successo niente. Ma tu Giulio, non si intende oggi? Vabbè, c'è la partita, poi alle 8:30 ce n'è un'altra, gioca a Milan-Napoli. Sicuramente sta guardando lo sport. Ciao. Ciao genio. Ciao. Così perché te, ma la gente è disperata già, gente che non ha niente da perdere, capito? Magari sono tossici, ne sono usciti appena la carriera, o galeotti che erano già dentro, e io già me ne affrutti, ma ne voglio un'altra, e me ne do la entrata, però se mi fa bene mi metto un po' di soldi in tasca. Sono disperati già, sono disperati, cazzo, è una cosa vergognosa. Datemi due minutti, visto che tratta Eugenio, riprendi Eugenio, 2 minuti che mi ha chiamato mio moglie, non ho capito se vuoi togliere qualcosa al finte, non ho compreso. Riprendi Eugenio. E mi stavamo parlando di frutti delle case. Thank you. Francesca perché fortunisti che aveva piantato il piede. È un casino, eh? Sì, ha detto che farà una cosa da pensione, ma ci dobbiamo già fare. Fatti bere i conti, Gianni, fatti bere i conti. Non ci ha dato mio fratello, cazzo, non ce la fa più, ci vede mio fratello, è distrutto, tra il diabete, le ricette che ha avuto, non ce la fa più, non ce la fa più, però non vuole andare perché dice che è troppo poco, capito? Ma c'è anche la pensione invalidità. Infatti ci ho parlato l'altro giorno, ho detto sì, con la legge che hanno fatto, ti hanno lo scivolo, questo mi pare macchina due o tre anni, mi hanno lo scivolo come invalidità, mi fanno la comune la pensione, me lo danno la pensione, però molto meno di quanto prendo di stipendio. E allora rimane di a travagliare, cosa vi dico? Io ho 5 anni. Loro devono integrarlo, come mi ha detto mio fratello. L'integrazione è pari al 25% che ti tolgono, è un casino, è un casino. Lui i conti se li ha fatti già, cioè, questo dicendo, fateli bene, prima di aderire, fateli bene, bene bene, se riesci soffrendo, 2 mesi a casa e resta a lavoro, 2 mesi a casa e resta a lavoro e tira campana. Direttamente come sono andato io con la contributiva, allora non ti manca niente, ma ha visto la cosa che hanno fatto a Franco. Franco non prende la tredicesima, si deve arrivare a 67 anni, capito? Perché lui è andato come è andato prima, come lavoro usurante, e se li trattengono gli anni che gli hanno dato di scivolo, è un casino. Fatta la legge e tolto l'inganno, sono dei miserabili che non vanno mai a dirlo. No, fatta la legge e trovato l'inganno, non tolto, trovato. Scusa, volevo dire trovato l'inganno, capito? Trovato l'inganno. Io già, i calcoli mi sono fatti fare bene alla lira e quando mi hanno detto guarda, se si prende questo, io ero già intorno ai 1700, ok? Perché lavoravo anche, vabbè, le domeniche, eccetera, domeniche mattine, quando mi aspettavano sì una notte, eccetera. Comunque lo stipendio mio è intorno al 1700 euro. E quando mi hanno fatto i conti mi hanno detto, guarda, tu con 41 anni e 10 mesi vai con tot. E ho già detto, ma... ho fatto giù i conti, ho detto, ma sì. Perché ultimamente ci avevano tolto la macchina in servizio, quindi dovevo andare con la macchina mia, c'erano le spese della macchina, a volte rimanevo a pranzo fuori, quindi quelle 150 euro, 180 euro le spendevo, ne sto prendendo 150 in meno, però sono a casa, non me ne frega niente, riferrafa sono i soldi puliti che prendevo lavorando. Sì, per viaggiare io c'ho. Già un lavoro usurante e quindi mi hanno dato come integrazione, hanno fatto loro i calcoli, percentuali, cosa mi aspettava, cosa non mi aspettava. E l'Inps non ha risposto neanche a me, ha risposto direttamente a loro. Sono andato l'altro giorno a ritirarmi la lettera, infatti c'è scritto proprio cosa l'Inps, ma l'hanno stampata loro, capito? Però sono diretti, infatti era aspettabile Cisa, Alvaro Umberto, 100 euro, per conoscenza Marti Claudio, hanno mandato direttamente a loro. Quindi te la fai fare da un patronato, bene, Cisa è molto competente. Molto competente, l'Inver Umberto faceva la guardia di finanza, e poi te la fai fare da un commercialista, da un ragioniere, da qualcuno, insomma, in modo che sai direttamente, mi spetta questo, sì, accetto, non muoio di fame, sto bene lo stesso, oppure no, non accetto, continuo a complicare, ma ci vado, non le do la soddisfazione. Io soddisfazione di stare lì, a 150 euro il manco non glielo va. Tanto ce li stavo rimettendo in benzina, in sacrifici, balle e poi va. Cazzo, non ho mai fatto una domenica a casa, si può dire. Ho un festivo a casa. Lascia perdere. Provaci già. Ti auguro che vada tutto bene. Almeno te ne stai a casa e si rabbigliano i lucci. E i sindacati ci sono per quello. Io ero iscritto CISA, prima sì, eravamo tutti CGL, tutti. Poi noi ci hanno costretto, però la maggior parte erano CISA, abbiamo detto vabbè dai, facciamo tutti CISA, abbiamo fatto tutti CISA, però la CGL è un buon sindacato, c'hanno un buonissimo patronato, non buono, un buonissimo patronato, sono gente seria, ti accompagnano a quello che ti devono dire. Sono loro a giudicare se va bene o non va bene, capito? A me la CISA lo stesso, me l'ha detto. Poi c'è un ragazzo bravissimo che è laureato in economia e commercio, quindi è molto bravo, me l'ha detto lui. Ma tu guarda, i calcoli sono questi, le percentuali sono questi, hai diritto a questo. Fra un anno, infatti è passato un anno, io sono in pensione proprio al primo gennaio del 2019, ho fatto un anno. E mi ha detto, a un anno includiamo il lavoro domenicale che non avevamo incluso, quindi c'è un'altra aliquota, ti devono dare una differenza, non so poi se 50, 70, 80, infatti non ha imbagliato, che 80 euro, 79,80 centesimi, capito? Mi hanno dato anche quella, quindi riferrafa, sto andando, mi mancano i vento e manco, capito? Sono già 1.600 di pensione, quindi di cosa mi ha fatto? A giusto a Matarame, lo sai vedo un passa via. Sì, io ho oggi, è un commercialista, è consulente al lavoro, beh, se un commercialista è chiaro che è quello, lui vede, però ripeto, la CGL ha dei buoni elementi per fare i calcoli pensionistici. Sono laureati tutti e due in economia e commercio, vai tranquillo, perché mio cognato è laureato in economia e commercio, la contabilità dell'azienda sua se l'ha sempre fatta lui assieme a un ragioniere contabile che aveva nel suo ufficio, proprio lì via San Francesco, si chiamava Studio M, ok, quindi Studio Murgia, e perciò te lo sto dicendo per quello. E faceva la consulenza del lavoro, tutto lui faceva. Io ti dico una certezza perché ho mia sorella che è consulente e commercialista, cioè consulente commercialista e consulente. cognato la stessa cosa, ok, commercialista, laureatemi come commercio, poi fai una specializzazione, un'integrazione per la consulenza del lavoro, ma la laurea rimane quella, non ce ne sono altre di lauree. Una specialistica ti sto dicendo, è come il medico di base, no? Che è laureato in medicina, poi fa la specialistica per odontoiatria, fa la specialistica per otorinolaringoiatra, fa la specialistica per... Ma la laurea è sempre in medicina, Emmy. Devi fare una specialistica, un'integrazione, una cazzata, io già, se sei già laureato non è che vuoi dare esami, non ha nessun significato, una specialistica delle cose che fai per specializzarti in quella materia, ecco, capito? Vabbè, comunque, siamo capiti. Va bene, va bene. Va bene che va bene. Comunque, è così, è così. Io sono rinato. Vai, già voglio dire rinato. Tutti, a volte non so cosa fare, però adesso mi è arrivato tempo buono, io mi trasferisco in campagna. E non ce n'è problema. Inverno, inverno. Vabbè, tu. Il ragazzo, di mangiare il bindacciato, tutti i lavori, riusciva la biglia. Io lavoro, ti lascio anche le antenne e tutto, anche le radio e tutto ti lascio. No, siamo per il lavoro, c'è il tuo posto, non lo so, tutti in casa. Io spero che quest'anno mia madre non divida in vita, se no mi tocca pagare la pulizia, c'è per l'odore. Vabbè, già siamo in cinque, no? Mamma ci ha portato la produttore, se... a due piani, anzi sono due perché sono separati, l'ingresso è unico, però sono due appartamenti, uno piano a terra, un primo piano più avanzato, capito? Quindi poi la moglie ne ha una parte, perché una è già stata venduta, una parte via San Francesco Sassari, più questa, più in campagna, però vabbè, lì c'è mia figlia che comanda lei, ma il resto me lo sto facendo io, lascia perdere, lascia Billino, fa vedere i gasi. Lui non fa niente. E vedi, il campo è bello se c'hai un terreno dentro città, piccolino, recintato, bello, con pozzo, luce. Fa una bella verandina, il legno è buono, un gambo sotto, ragazzi, c'è mito. Tu pensi che non sia una cosa ideale da fare? Troppo tassi ci sono, capisci? Vabbè, oggi cos'è? Martedì, lunedì, ieri, ero al posto, ci ho pagato l'IMU di Valle San Francesco, l'IMU di Noghi, poi mi ha dato l'IMU mia figlia, poi ho pagato Aruzzi, poi ho pagato... Oh, basta. Oggi luce telefono. Già, ma non solo luce telefono, c'è l'IMU di Presso Francesco degli altri 100 metri quadri, e lì devi pagare. La luce è la tassa fissa, l'acqua è la tassa fissa, ed è chiusa. Qua vabbè ci abitiamo, siamo sempre più qua, e vabbè. Tanto tre IMU c'ho io, tre, una parte, due e mezzo, però... è tanto, capito? Però già non conviene, come mi ha detto proprio un commercialista, non conviene perché le cose devi fare tu, se si rompe una cosa devi intervenire tu, ti distruggi l'indotto, assolutamente, no, non me ne frega nulla, tanto quattro sono in vendita, quindi sia questa che quella di San Francesco, una è già stata venduta, adesso c'è l'altra. Perciò, perché era trovata unica, poi mio cognato ha deciso di separarla, per venderle prima, quindi sono andati due appartamenti. E ci manca quella, sono in vendita, non c'è da affittare niente. Se vedi che c'è San Francesco, abbiamo le mani in capo di lavare, quando va entrambi. I mobili che c'erano dell'ufficio se li ha presi tutti lui. Ce li ha presi tutti lui. Vedi come è fatta quella casa, la paura. È una villa appoggiata sopra un tetto. Già, tre bagni, tre stanze da letto, tre bagni, tre stanze da letto, ogni bagno c'è la sua stanza da letto, salone, non so, mi ricordo, avanti si era asciugato, si può giocare a pallone, ma è tutta rivestita in pietra, tutta bella, travi, tutte in ulivo, a vista, con gli abbaini, finestre per massarla, tutte elettriche, a motorino, sto dicendo che è fatta veramente bene quella casa, Io in un primo momento avevo intenzione di andarmene lì, mia moglie non era d'accordo, capito? Perché, vabbè, sono tre piani, sali a piedi, però c'è il problema del posteggio, con due macchine, un casino, possibilità di garage non ce n'è, puoi averlo, puoi prenderlo via Carso, ma ti arriva tutto via San Francesco a piedi, capito? E quindi niente, se no mi sarei andato lì, alla grande, bella rella quella casa, ti sto facendo le volte, diglielo, mi stava lavorando anche Fabrizio, molto bella quella casa, però siccome era un bel grande, allora la divisa in due, capito? Era 250 metri quadri, allora la divisa in due, ho fatto due appartamenti a 125, però una è stata venduta, l'altra ancora no. Simone, che mi si è attaccato come il polpo, gliel'ho data come ho voluto io, 4.500 euro, prendere o lasciare, e se l'avevo presa, capito? E io ce l'ho, la moto, io ce l'ho lo scooter piccolo e la moto anche grande, non so, solo che ho fatto come facevi tu, no? Siccome non la sto usando solo lo scooter piccolo, la moto grande ho bloccato la circolazione, e la riprendo a giugno, assicurazione tutto l'anno già stata data la moto, io con quella non escono, si mettono col collo. Io penso che sono un grande. Ma tu sei miliardario, io no. A me non piacciono quelle moto, no, non perché la tua sia, però tu c'è la passione di quelle moto lì, no? Io ho la moto da strada, ho il Kawasaki R600, va bene così, poi c'ho lo scooter, 150 che uso per fare commissioni dentro città. Ho fatto altri investimenti che comprarmi moto e radio e che mi interessa di più, che voglio dormire sereno a vecchiaia, non come quei tagli attaccati ai coglioni. Perché una volta sono andato da Mazza, la fare tagliata la moto, e è venuto un tipo come vedete, c'è un tempo, sia il baracchino che la radio. Di Vincenzo, quello di Vincenzo Sata. Non lo so come si chiama, non lo conoscevo, mi sono associato a Tavolo del Paradiso, sì. E io faccio più ascolto che altro, non è che lui non sa, però qualche volta sono molto raduni e per vedere che ci sono anche problemi a cambiare. Sì, dovrebbe essere quella di Certo, quella grigia, non anche sa se l'ho visto da Omar. Da poco è salito che c'era un motoraduno ad Osero, c'era lui, pare sia presidente del motoclub. Lo conosci a Certo tu, Eugè, sì? Eugè, Castagardiani si è caggiuto. E quello lì è è quello lì, sicuramente è quello. C'è una moto grande, una macchina, c'ha due antenne dietro, una per la radio e una per il barattino. Cioè deve essere quello. Mimi, quota 100, presentazione alla domanda di pensione. Ma è una truffa, no? Che tu non hai idea. Tu immagini che per andare con quota 100, 38, 62, ti tolgono dalla pensione il 25%, capito? Perché ti tolgo il 25%? Perché la contributiva è 41 anni, quindi 38, 39, 40 e 41, ok? Per 3 anni ti tolgo il 25%. Se uno piglia 1500 euro di pensione, che è difficile, dimmi, io mio genero, mi è successo, aspetta. Aspetta un altro telefono, già. Scusa, già, ci sei? Doppio? A Bisese? Doppio room, ci sei? Cambio? Buonasera. Chi è? Diavoli. Sì, al telefono con Mariolino. KK. Non c'era già nel doppio room, io al telefono è sparito. Allora? Aspetta. Cambio barattino, dove c'è sconfitto. Questo com'è? Buono, perfetto. Allora, questo è il sala, col microfono normale. No, va bene, te l'ho già detto l'altro giorno, va benissimo, non bene, benissimo. 9-10, segnale, ottimo, la radio 5 è perfetta. E questo è il Turner più 3 invece. Questo è ancora più forte, più compressa, più presente, va bene. È un po'. Non lo so, è un bottone, aspetta che metto l'eco, se lei, guarda se lecca, questo è l'eco, 1, 2, 3, 4, prova. Questo mai già ne ho più room? No, allora lo tolgo. Adesso siamo con l'azione sua, cioè, col Galaxy, anche lui usa il Galaxy con l'eco. Sto usando, vabbè, farlo con la lontana, abbassiamo la potenza. Vabbè, c'è un baracchino, va bene. Io me l'altro giorno stavo usando il DAC, cosa pensi che dia? Quindi ti fatti, c'avevo lì c'ho l'MB più 5, se non più 3 l'avevo lato, perché era troppo forte lì, già la mia modulazione è alta, e quindi l'MB più 5 uso. Doppio root, ci sei? Aspetta, se riesco a attacco il 440, vedo come esce. Sicuramente esce benissimo, guarda. Guarda tutto rigurato, fatto. Ecco, adesso c'ho l'ecco, capito, c'entra un accidente, ho già visto, lo tolgo. Ah, tu gli ho visto. E io sono andato 4.30, quello che ti ricordi. Che avevo preso a te, Fabrizio mi aveva cambiato il display, e sto andando con quello lì. No, va bene. Perfetto. È uguale all'altro, uguale al 440. Sì, non cambia niente. C'ho due MC60, uno per il 440, uno per il 430. Già va bene. E io lo sto usando perché è un bel ferro. Io ho abituato al 440, uso sempre quello, però sono vicino. C'ho il PS50 che mi fa sul 430. Il boxer da 50A con il 440. Già va bene, attento Gianni doppio root. Dammi un minuto. E a Genova. No, per molto, non più lei. Se riesco a piano, mamma mia, ogni sera te sa più. Con questo mi senti? Sì, ti sento. Mi senti? E io ti ho apponato, solleva il volume. Aspetta. Muovi di parola, non fare come l'altro giorno, devo portare il cane. Come sto uscendo? Bene, un po' occupa la modulazione, però già va bene. Non ricevo niente, non sto ricevendo. Non sta ricevendo? E come mai non sta ricevendo? Guarda in alto se c'è lo squelch, dove c'è scritto no ci squelch. Se c'è lo squelch chiuso, quello nero portalo tutto a sinistra. Questo lo da cavolo, capita. Questa è la potenza, Ehi, via. No, non lo lascio levare così che saturi, abbassala. Metti, se non c'è lo strumento esterno, dove c'è scritto power, mettilo in mezzo tra il 10 e il 50, già va bene. Mi sono basso adesso. Cavolo, l'ho messo a 2. No, ma guarda, sullo smitter c'è 1, 3, 5, 7, 9, mettilo dove c'è 5. Però non sento niente, non sto ricevendo, ti sento senza segnale, qualche problema c'è? Guarda che non c'è ben attenuatore inserito. Oh, boh, no, attenuatore non ne ha, sì, in alto, dove c'è NB, AT, guarda che deve essere inserito l'attenuatore, toglielo in fuori. Sopra in alto dove c'è power, cazzo, vi accendi la radio, c'è voice, NB, ATT, guarda se in fuori o in dentro quello. E beh, no, non sta funzionando, già lo capisco dove devo andare, non funziona, c'è qualche problema, dai. C'è una madonna che... fallo vedere a Fabri, che è lui il maestro di quelle radio. A me me l'ha tutto revisionato lui, me l'aveva. Quello perché le radio non le usi, cazzo, tutte mucchiate lì. Dice baracchini, ma non pazzini, usate il 4.40 lì o il 4.30, messo da una parte, e quelle se non le usi difettano, ma difettano forte. Guarda a vedere, adesso mi senti? Perfettamente. Grazie, quanto mi sole. Adesso ci ho pensato al selettore, quello è il selettore in banda, se tu metti in N ti attenua il segnale, non senti un cacchio. Mi sembra strano, se è trovato lui l'ha revisionato quando il laboratorio era ancora attivo, per capirci. Ma adesso ti sento benissimo, perfetto. Com'è la modulazione? Adesso è perfetta. Perché tra l'altro quel selettore lì ti cambia anche la modulazione, non solo della ricezione. Quello deve essere per i filtri, M1, M2, anche per M2 c'è il doppio, quello lì. Sì, tutti i filtri sono quelli. Sono i filtri SSB, AM, FM, c'è un doppio. Ma ecco perché non si più una lega. Perché stringe, quelli stringe la banda e quindi non mi sentivi. Devi lasciarlo centrale, in automatico. Se riprende lui man mano che tu cambi banda. Ma se lo metti in M1 non funziona. M1 non ce n'è il filtro, M1 non ce n'è. C'è M2, whisky, N. N non c'è. N non ce n'è? No. Allora ne ha due in meno del mio. Il mio c'ha l'N, l'M2 e il whisky. Perché c'è anche i filtri FM e poi c'è la scheda fonim. 7 0 7 5 0 0. Questo è completo, questo c'è, l'aveva visto anche Fabrizio, ma aveva detto lui che c'era tutti i filtri. Va bene, c'è quello che lo uso io entro ogni 2 anni, 3, a fare una prova. L'importante è che sia buona la modulazione del 4.40 qua, che non sia cupa, ecco. No, va, cortesano, microfono normale. No, l'MC60. L'MC60, il Michigan quanto ce l'hai? A 1.5. Allora, portalo, sì, come il mio, più o meno, dai, 1.5. Il processore è inserito, L'MC60 c'hai la posizione 50-500, a quanto ce l'hai? A 50 o a 500? Ah, so. 50. Ok, 50. Solleva il microfono, cioè guarda se sotto c'è un tastino, se è in posizione out o in, se il tastino è spostato in avanti verso di te o dietro verso di te. In. Ah, già va bene. E quella è la modulazione, va bene. È che sei tu che sei grosso di statura e grosso anche di voce. Grasso di voce. Oh, vabbè, comunque già sta andando, si può dire. Oh, va bene, sta andando. Quello è rifatta nuova la radio, è tutta revisionata nuova, perfetta. È perfetta, ottima. Anche nuova nuova. Sì, già lo so. È nuovissima quella radio. Perfetta, va bene. No, tienilo così. In automatico il selettore dei filtri, il processore va bene, l'impedenza va bene del 60 e il Mickey Game va benissimo. Prova a sollevarlo appena più di 1.5. Ecco, così l'ho portato a 2 adesso in questo momento. Se non gridi è una bomba, non devi gridare. Se invece grido così si strappa? Sì, se gridi strappa, anche il mio se mette a gridare strappa. Se ci parli pacato, bene, tranquillo, a 20-30 cm, eccezionale la modulazione. Vabbè, così parlo normale, due staccato. Anche troppo forte, abbassala appena, appena, appena. No, ma più o meno, occhio così. Perfetto, lasciala così. Ottimo per la truppa, ottimo. Va bene, va bene. Ok, devo scendere giù a ritirare questa documentazione, padre. Dai, ti lascio e poi porto il cane. Fatti sentire più spesso, cazzo, non entrare alle 8 di sera. Vabbè che tu non hai problemi, ma io tra il cane e le rotture di balle, io entro verso le 6 e mezza, così. Con Gianni facciamo due chiacchiere fino alle 7 e mezza, 8 e un quarto. Tu non senti questo? Assolutamente no, non essere vicino a te. Che messaggio, avanti. Sai che ho detto qualcosa, buonasera. Sto arrivando S2, S3, non ho capito. Dove sei? No, adesso non ti sento, prima ero lì bene, adesso non capisco quello che stai dicendo. Dove sei? Santa Teresa? Non ti sento, io non sono impresso. Quando arrivi meglio chiamami. Anche c'è a Santa Teresa, poi io ho CB. Che penso di sì. No, va lì che non intendo più nessuno, anche io. Va bene, dai, se ci sei risalgo dopo, ok, se lasci acceso sul 10, risalgo dopo, riprendiamo, fammi andare a dire i documenti che mi servono. Ciao, no. Lasciala accesa, fallo scaldare quella radio, lasciala accesa, accesa, che così si caricano i condensatori e esce ancora meglio, perché appena l'accendi non esce bene bene bene, capito? A dopo, ciao. Va bene. E guardati che c'è il Milan stasera, Milan-Napoli. Che piglia la giusta, la Napoli allucinante. Di campionato? No, Coppa Italia. Ci sono i quarti Coppa Italia. Oggi gioca il Milan, Milan-Napoli, domani c'è Atalanta Juventus. Alle 8 e mezza? Sì, alle 8 e mezza. Oggi e domani la Juventus alle 8 e mezza. Intanto è tutto sul primo. Capito? Tutto Rai 1, la Rai, dai. 1, 2. Va bene. KK, dopo ciao. Ciao. Avanti sul canale 10 che voleva parlare. Avanti canale 10. Questo è troppo alto questa cosa. Che mi buonasera, ascolti Sassari, buonasera, attenzione al canale 10, c'è nessuno, 5-10, 5-10. Paola, canale 10.